Topic of our demo talk this evening is certainly going to be the five limbs of striving in the Pali scriptural language known as Panchapadaniyangani. The five limbs of striving. Limbs, parts. Parts so of striving. The five kinds of effort. Party. So can you repeat it? The topic of our Dhamma talk this evening is the five limbs of striving. Così di sforzo. L'argomento di questa sera saranno le quattro parti di cui ho comporto. Cominciato male forse. Le cinque parti di cui è composto lo sforzo. The Pali term for this is padaniyanga. La parola Pali per che descrive questo è padaniyanga. And so the reason for choosing this Dhamma talk is that some of our meditators here are already somewhat advanced in their meditation practice because they've been here already for longer, and then some others who've joined us just recently are maybe not quite that advanced yet. So to find a topic that suits both groups is actually not that easy. Ho scelto questo argomento poiché nel gruppo ci sono delle persone che sono abbastanza avanzate nella pratica perché hanno cominciato il ritiro già da tempo, e mentre altre persone hanno raggiunto il ritiro più tardi, e quindi ho cercato un argomento che poteva essere utile a tutte e due questi gruppi di persone. And so this topic tonight could be useful for both groups. E così l'argomento di questa sera ritengo che possa essere utile per tutte e due questi gruppi. Now, to start with an illustration. Italian food is famous. Cominciamo con un'illustrazione. Il cibo italiano è famoso. And so if some foreigner wants to learn the high art of Italian cooking, then he has to come to Italy and has to become an apprentice with some famous Italian cook. Così, se uno straniero desiderasse approfondire, imparare l'alta cucina italiana, dovrebbe venire in Italia e diventare o andare come in apprendistato presso uno dei più famosi cuochi, qualcuno dei più famosi cuochi italiani. And so this apprentice, this person who wants to learn the art of Italian cooking, first of all has to have faith in the fact that Italian cooking is really top, and secondly the apprentice also has to have faith in the famous cook, the chef, not just cook. Così questa persona, questo apprendista che desidera imparare l'alta cucina italiana deve avere fede e credere nel fatto appunto che la cucina italiana sia una cucina al top, che sta al top, e credere e aver fede nel fatto che il cuoco, l'insegnante che lui ha scelto sia veramente un grande cuoco, uno chef. And just having faith in Italian cooking, the art of Italian cooking, and having faith in the chef itself is not enough. Our apprentice also needs to have good health. Namely, if the apprentice is somewhat is enjoying poor health, and once a week or even twice a week, he doesn't show up for work because of health reasons, then sooner or later il maestro will send him away. E così, ma questo non basta, cioè non basta credere che il fatto che la cucina italiana sia il top, che quello chef prescelto sia il top. Questo apprendista ha bisogno anche di essere in buona salute, poiché se uno o due volte alla settimana dovesse assentarsi per ragioni di salute, dopo un po' questo grande chef lo caccerebbe. And certainly so, learning as an apprentice under a famous Italian chef, one needs to be willing to work more than just the ordinary 8 hours, but maybe 10 hours, sometimes even 12 hours. So this requires good health on the part of the apprentice. Così questo apprendista deve essere anche preparato a lavorare molto per per le richieste di questo chef, e quindi non le solite 8 ore canoniche, ma 10-12 ore per aderire alle richieste dell'apprendimento. So, having faith in the art of Italian cooking and the chef, and also possessing good health on the part of the apprentice is good, but is it really enough? And just imagine this apprentice, after maybe 6 months on the job, realizes, well, the chef doesn't really seem to be paying attention, and there's all this extra cheese here. I will take this back home. And in this way, I don't have to go to the supermarket and buy some cheese. Oltre a queste qualità, cioè credere nella cucina, credere nello chef, avere buona salute e essere disposto a lavorare molto, ci dovrà anche essere un atteggiamento corretto. Se per esempio questo apprendista dovesse alla fine della giornata di lavoro trovare del formaggio avanzato e pensasse, bene, adesso questo formaggio me lo porto a casa così non devo andare al supermercato a comperarmelo. And however, the chef is more attentive than our apprentice has thought or imagined, and he did observe carefully how much cheese was left over, and there is left over, and the following day he notices, there's a major decrease here. And and then he starts questioning the apprentice, and it all comes, the truth then comes up. Ma il cuoco, siccome lo chef, siccome è uno chef molto accorto, il giorno dopo si accorge, controlla sempre tutti i giorni le quantità di prodotti che ci sono nella cucina e si rende conto che c'è una mancanza nel reparto dei formaggi. E così comincia una piccola inchiesta tra gli apprendisti e la verità salta fuori. The chef, of course, is in a delicate situation because of the apprentice. The apprentice stealing this may fall onto the head of the chef, and the chef in turn might get kicked out. So to have an apprentice who is dishonest that will not really work. Così a quel punto lo chef si trova in una posizione delicata, perché il fatto che vengano a mancare dei prodotti della cucina potrebbe ricadere come una sua personale responsabilità, e quindi il fatto di ritrovarsi con un apprendista disonesto lo mette in una condizione critica, e quindi sarà costretto a cacciare questo apprendista. So, what we can learn from this is that the apprentice needs to be honest. Così quello che possiamo apprendere da questo piccolo aneddoto è che l'apprendista per l'apprendista c'è la necessità anche di essere onesto. So, the apprentice, even though he is of good or enjoys good health, he also needs to exert good effort. E l'apprendista, oltre a godere di buona salute, deve anche applicarsi con uno sforzo adeguato. And if our apprentice in our story is working hard enough, and the chef then has to work harder for him, or has to work more because the apprentice is lazy, mm-hmm. The chef will not tolerate this situation for too long. E anche in questo caso, se l'apprendista dovesse essere pigro, ecco che in quel caso sarebbe il cuoco a doversi sovraccaricare di lavoro, del lavoro che non è compiuto dall'apprendista pigro. E anche in questo caso, quindi, prima o poi sarebbe costretto a mandarlo via. And so, if the apprentice exerts certain effort, tries really hard, does all the work that has been assigned to him, then things are okay. Così, quando l'apprendista si comporta in modo adeguato, porta a termine tutti i lavori che gli sono stati assegnati, ecco che in quel caso le cose funzionano bene. Now, yet, if the apprentice has faith in the art of Italian cooking and the teacher, and also is of good health, is honest and is exerting effort, this much is good, but it might not be good enough. If the apprentice is somewhat dull and slow in understanding the way of preparing Italian food, then again the chef might run out of patience and say enough is enough. Ma ancora non basta che ci sia fede nel cuoco, nella cucina italiana, non basta che ci sia la buona salute, non basta che lo sforzo sia applicato con solerzia, ma bisogna anche che questo apprendista sia intelligente, non ottuso, che comprenda bene gli insegnamenti e porti a termine in modo proficuo i compiti che gli sono assegnati, perché dopo un po' il cuoco potrebbe dirgli che ne ha abbastanza. No, in like manner our meditators here need to possess 5 qualities. E così, proprio allo stesso modo, i meditanti che sono qui hanno bisogno di avere 5 qualità. And those qualities are to have faith in the Buddha's virtues, and then to enjoy good health, and then honesty and sincerity, and Così è, le qualità che sono necessarie sono la fede nelle qualità e nella virtù del Buddha, l'onestà e la salute and then honesty. E l'onestà. And then, exerting ardent effort. Applicare uno sforzo ardente con passione. And then finally wisdom. E da ultimo la saggezza. So, what we shall do is we shall discuss these 5 qualities. Quello che faremo è discutere e chiarire queste 5 qualità. So, the Pali term here is the Pali term for limbs of striving is Padaniyanga. Padaniyanga. Padaniyanga è il termine pali che descrive queste 5 parti of effort. Dello sforzo. And so this term we can break up into 2 parts, namely Padaniya and Anga. Padaniya e Anga. Sono i 2 termini in cui può essere scomposto questo termine. And so the term, the term anga is your factor or your limb or your part. Il termine anga rappresenta il fattore, la parte. And padaniya is an adjective, and this means belonging to or connected with exertion, with making effort. Padania è un aggettivo che si riferisce all'applicare lo sforzo. Now, o al fare lo sforzo. As for the first one, the Buddha speaks as follows. Here, a bhikkhu, a bhikkhuni or a lay meditator has faith. He or she places faith in the Tathagata's enlightenment as follows. Così, per primo, se il Buddha parla del primo di queste parti, cioè della fede, in questo modo. Qui un bhikkhu, una bhikkhuni, un monaco, una monaca, un laico, una laica, ha fede nelle qualità dell'illuminato e si applica in questo modo. That blessed one is accomplished. Pensando, il beato ha ottenuto, ha raggiunto l'obiettivo. Is fully enlightened. È completamente illuminato. Perfect in true knowledge and conduct. Perfetto nella vera conoscenza e nella condotta. Then sublime. Sublime. Knower of worlds. No. Knower of worlds. Of, knower of the world. No, conosce tutti i mondi. Incomparable leader of persons. To be tamed. Incomparabile condottiero di persone che devono essere addestrate o domate. Teacher of God, of gods and humans. Insegnante di divinità e di umani. Enlightened. Illuminato. Blessed. Benedetto. Now, we shall briefly discuss out of those qualities, virtues of the Buddha, one, namely, given as endowed with clear vision and virtuous conduct. Discutiamo, parleremo di questa qualità del Buddha di essere endowed with. Colmo di chiara visione, clear vision and certain virtuous conduct. E di condotta virtuosa. So these two qualities have the following meaning, namely, to be endowed with certain clear vision is a reference certain to knowledge. And this comes in the following form. Così queste due qualità, il colmo di conoscenza. It comes in three forms. Questa qualità dell'essere colmo di conoscenza avviene sotto in tre modi, in tre forme. Namely, remembering the remembrance of former rebirths. La prima è il ricordare le precedenti rinascite. And then possessing or possession of the divine eye. Il possedere l'occhio divino. And then finally the cessation of the corruptions or the destruction of the corruptions. E da ultimo la distruzione delle corruzioni. Corruption. And then as for the virtuous conduct, this gets explained as consisting of 15 qualities of the Buddha. Per quanto riguarda la condotta virtuosa, questa è composta delle 15 qualità di un Buddha. And the first one is restrained by virtue. La prima è un un contenimento con la virtù, grazie alla virtù, and then restraint of the senses, un contenimento per quanto riguarda i sensi, moderation in eating, moderazione nel nutrirsi, nel mangiare, devotion to wakefulness, devozione to wakefulness, being, you know, to being awake, devozione verso l'essere un risvegliato, and satnya then, the seven good states satnya, such as faith, i sette stati positivi come la fede, moral shame, il rimorso o il pudore, pudore. Moral moral fear, questo è il rimorso, and then great learning, grande conoscenza, grande apprendimento, energia, mindfulness, consapevolezza, wisdom, saggezza, and certainly the four absorptions, the jhanas, i quattro assorbimenti, ovvero i quattro jhana. Now, just to give you one single example for the Buddha's possession of clear vision and certain virtuous conduct. Così, giusto per dare un esempio delle qualità del Buddha di chiara comprensione e di condotta virtuosa. And so, the Buddha, or maybe to give you two examples, that's better. The possession of clear vision in the case of the Buddha happens, or it takes place, in the form of omniscient knowledge, being fulfilled with omniscient knowledge. Nel caso del Buddha, la chiara visione si prende a luogo come visione onnisciente, conoscenza onnisciente. And certainly then, the virtuous conduct consists in the fulfillment of great compassion. E invece quella la condotta virtuosa si manifesta con una grande compassione. And certainly it is out of omniscient knowledge that the Buddha knows what is good for the beings and what is detrimental for the human beings. E grazie a questa visione onnisciente, comprensione onnisciente, il Buddha conosce, ed è proprio questa, grazie a questa visione onnisciente, che il Buddha conosce ciò che è bene per gli esseri. And so, we said earlier on, virtuous conduct consists of great compassion, and it is thus out of great compassion that the Buddha warns beings to avoid harm and encourages them to do good. E abbiamo detto che la condotta virtuosa si manifesta attraverso questa grande compassione, e grazie, è proprio in ragione di questa grande compassione che il Buddha avvisa gli uomini e mette in guardia gli uomini dall'essere, dal fare del male, e li incoraggia a perseguire la virtù. And so, just to think, the Buddha gained great enlightenment, and suddenly then, for quite a number of days he enjoyed the fruits of having gained full enlightenment, and suddenly then, again for some days he was not too sure whether to share the Dhamma with beings or not. Quindi, dopo aver raggiunto la completa illuminazione, il Buddha spese alcuni giorni semplicemente godendo di questa di questo stato. E per alcuni giorni ancora seguenti non era completamente sicuro se fosse il caso di condividere questa comprensione, questa illuminazione. So if the Buddha would not have shared his knowledge, his omniscient knowledge with other beings, then we would not be sitting here and practicing here. E così, se allora il Buddha avesse deciso di non condividere con altri esseri questa sua conoscenza, noi oggi non saremmo seduti qui. And so it is fortunately, owing to his great compassion, seeing the shortcomings in human beings, seeing how human beings, or beings in general, sentient beings, how they end up in suffering again and again, that he then went one step further and he shared this Dhamma with them. E così è proprio grazie a questa grande compassione e al fatto che il Buddha vide quali erano le mancanze e i difetti degli uomini, non solo degli uomini ma di tutti gli esseri senzienti, e quindi decise, e delle loro possibilità anche, e quindi decise di condividere queste sue conoscenze. And certainly so, when we reflect on this particular quality of or virtue of the Buddha, then we might feel very inspired by this, and certainly then we may be quite ready to or quite eager to practice. Così riflettendo, proprio facendo le riflessioni su questa grande virtù, questa grande compassione che ha dimostrato il Buddha nei confronti di tutti gli esseri, il riflettere su questa grande compassione, su questa possibilità che lui ha offerto a tutti gli esseri, dovrebbe motivarci a una pratica colma di passione. And so, also when we think of the fact that the Buddha, by a number of famous people, has been called the greatest teacher. E pensiamo anche al fatto che il Buddha, da moltissime persone di gran fama, è stato definito il grande maestro, il grande insegnante. And so, then to practice a teaching, namely Satipatthana, that was discovered by the Buddha and explained in great detail in a very systematic manner, this then may lead to the arising of much faith in us, and we feel inspired, and thus we want to practice. E così proprio questo insegnamento su Satipatthana, che è stato rilasciato dal Buddha in grande dettaglio e in modo molto chiaro, dovrebbe ispirarci e motivarci alla pratica. No. At the very beginning of, or before we actually undertake intensive meditation practice, we need some amount of faith to take this step and to do the first retreat. Così ogni volta che ci decidiamo di cominciare la pratica, quello di cui abbiamo bisogno è una certa quantità di fede che ci possa consentire di fare quel primo passo che ci porti alla decisione di fare un primo ritiro. Now, that much of faith is good, but still pretty weak. Però quella quantità di fede va bene, ma dobbiamo dire che è ancora debole. And so in the course of the meditation practice, it needs to deepen more and more. E nel corso della pratica meditativa c'è la necessità che questa fede diventi più profonda, sì, proprio profonda. And suddenly this happens every time we gain some new understanding, new insight, knowledge, our faith in the practice will increase. E questo avviene proprio contemporaneamente al nostro progresso nella pratica. Ogni volta che comprendiamo qualche cosa, no? Ogni volta che raggiungiamo una particolare conoscenza di insight, ecco che la fede cresce in parallelo. And so, you know, there are various types of faith, you know, that we can distinguish, and certainly the faith here is not a blind faith, but rather a faith that is certainly more based on actually experiencing the Dhamma. Così ci sono molti tipi di fede. Il tipo di fede di cui noi facciamo esperienza, che stiamo, di cui stiamo parlando, non è la fede cieca, ma una fede basata sull'esperienza del Dhamma. And so, you know, most people in the West very much appreciate this particular aspect of the Buddha's teachings, namely, come and see. Come and check out for yourself. Come and see for yourself. Test this Dhamma. E proprio qui in Occidente molte persone apprezzano questo aspetto dell'insegnamento del Buddha. Questo suo invito alle persone a venire e a vedere, nel venire e sperimentare il Dhamma. Now, faith itself can be a strong mental force. La fede in se stessa può essere una forte, poderosa forza mentale. And so when we look at certain meditators in a country such as Burma, where Buddhism is well established, it is in particular the women who have women, female meditators, who tend to have much faith in the Dhamma. In paesi come Burma, dove il buddismo è ben radicato, forte, è possibile vedere come, specialmente nel caso delle donne, la fede sia molto forte e lo si vede nella pratica. So when a Burmese woman attains a retreat, then usually for the most part she will bring plenty of faith along, and certainly she will then follow the instructions meticulously without questioning them. E le donne, specialmente quando fanno un ritiro, si applicano con molta fede e seguendo gli insegnamenti meticolosamente e senza metterli in discussione. And so when some difficulties arise, then the women will reflect on some quality of the Buddha, or will have faith in the teacher and remember, oh, the teacher has given me such and such advice, and they will just continue and suddenly then manage to overcome the difficulty. Nel caso di difficoltà, quando sopraggiungono difficoltà nella pratica, ecco che queste donne riflettono, vanno a riflettere proprio su queste qualità del Buddha e hanno fede nell'insegnante, ricordando i suggerimenti e i consigli che l'insegnante gli ha dato, e li applicheranno, e questo gli consentirà di portare avanti la pratica fino al superamento delle difficoltà. Now, with the men, it tends to be somewhat a different story. Invece con gli uomini di solito è una storia un po' diversa. And so, men, at least this is the observation, the general observation in Burma, they tend to will have skeptical doubts. So the teacher may give a certain instruction, and then the student will hear the instruction, go back to the meditation hall, and sit on the cushion, and start debating whether the instruction is really useful or the instruction given by the teacher is really useful or not. Così nel caso di Burma invece quello che si è visto in generale a Burma è che gli uomini vanno al ritiro, ricevono le istruzioni della meditazione dagli insegnanti, poi con queste istruzioni si dirigono verso la sala di meditazione, si sedono sul cuscino e a quel punto cominciano a discutere se il fatto se quelle istruzioni siano appropriate o meno. And this is not my observation, but rather the observation of the venerable Pandita Bhivansa. E questa non è una mia osservazione personale, ma un'osservazione del venerabile Upandita. And the men tend to judge the instructions. Against their life experiences, and if an instruction doesn't make sense against their life experiences, then they might easily discard the instructions. Perché gli uomini tendono a mettere in discussione le istruzioni che non corrispondono con la loro esperienza pratica. E quindi se queste istruzioni in qualche modo non corrispondono a quella che sono le loro idee o la loro esperienza, tendono a metterle da parte. And what holds true for the average Burmese male meditator will probably also apply to many male meditators in highly industrialized countries. Ciò che vale per il genere maschile in Burma, possiamo dire che può valere anche mediamente per i maschi delle nazioni sviluppate. And so, in the mind debating over whether the instructions that are given are correct or not useful or not, this will obviously slow down our meditator. E così mettersi a giudicare all'interno della propria mente o mettere in discussione le istruzioni tenderà a indebolire la pratica del meditante. And on occasion at the meditation center in Lumbini, we've had meditators, a few meditators, who just by tendency or so had a tremendous amount of skeptical doubt, which made it really difficult for them to practice. E così anche la mia esperienza in Lumbini, ci sono dei meditanti che hanno una quantità di dubbio scettico enorme e rende per loro molto difficile portare avanti la pratica meditativa. Just to give you one example, one meditator, without revealing his name and his home country, he would have certain progress in his meditation practice, and things would be advancing for a while, and then came again those certain critical questions. Am I doing the right thing? Am I on the right path? And maybe not. And then came all these many questions during the interview. E così c'è stato un caso, non rivelo la nazione e il nome naturalmente, di questa persona che è venuta a meditare. E ha cominciato a meditare e ha cominciato a fare certi progressi, ma poi a un certo punto sono cominciati i dubbi, sono cominciate le domande: sto facendo la cosa giusta, quello che sta succedendo accade in modo corretto, e tutte queste domande venivano riportate all'interno dell'intervista. And so, At times it's been very difficult to convince that meditator. E cioè, a volte era molto difficile riuscire a convincere quel meditante. No. So, even if you don't have 100% faith in the Buddha as yet, never mind, as long as you have faith in some aspects of the Dhamma, such as, let's say, the value of the meditation practice itself, that this is useful, that it leads to positive change. Then, based on this, place your faith on this, base it on this, and with this thing, do your meditation practice. And as you go on and meditate, you will again and again make new discoveries, which then show that the Buddha's teachings are correct. And the teacher who taught these teachings then gradually becomes revered. Così, anche se la vostra fede nel Buddha non è altissima, quello che è importante perlomeno è avere una sincera fede sul fatto che la pratica meditativa possa portare a questo tipo di meditazione, possa portare a dei progressi, a dei miglioramenti, a dei miglioramenti nella qualità delle vostre vite. Così, applicando le istruzioni e vedendo che applicando le istruzioni mano a mano ci sono dei progressi e ci sono dei miglioramenti, ecco che anche a quel punto la confidenza e la fiducia nell'insegnante porteranno ad avere rispetto e reverenza per almeno per l'insegnante. And in the Sutta Nipata, verse 77, it says that faith is called the seed of all wholesome states. Così nel Sutta Nipata, nel verso 77, viene detto che la fede è il seme che porta a tutti gli stati. Salutari. Oh, stati salutari, scusate. And so, when wholesome, or this is because it leads the mind, or the mind will be inspired with confidence and also determination, and as a result of this, one will launch forward, one will move forward. Perché la mente sarà ispirata da questa fede e grazie a questa ispirazione la persona sarà incoraggiato, rafforzata nel procedere, nell'andare avanti. And the process of moving forward to cross the flood of samsara. Il processo di procedere per attraversare la corrente del samsara. Now, maybe this much for the first quality. The second one is given as follows. Così questo, con questo terminiamo di trattare la prima parte e la seconda è definita in questo modo. The Buddha says, one is free from illness and affliction, possessing a good digestion that is neither too cool nor too warm, but medium and able to bear the strain of striving. Così il Buddha dice, la persona è libera dalla malattia e dal malessere, la sua digestione non è né calda né fredda, ma è di tipo medio, e grazie a questo stato salutare sarà in grado di portare avanti la meditazione o la pratica. Now, what Satya this means is that in order to do the practice we need some amount of good health. Questo significa che per portare avanti la pratica noi abbiamo bisogno di un certo grado di salute, un buon livello di salute. And so then the question arises, let's say if we're having a headache, does this mean we are then excused from practicing? Ma qui sorge la domanda: ma se abbiamo mal di testa, questa è una scusa per sospendere la pratica? So, the answer is obviously not. No. La risposta ovviamente è no. And so, in the meditation practice, at times we may end up with some mild fever, or with a running nose, or even with a cold, and even maybe at times certain diarrhea, etc. And so all of these states are still considered to be within the realm of having good health. Così nel corso della pratica meditativa, nel suo sviluppo, può capitare che ci siamo afflitti da delle febbri moderate o da problemi respiratori o anche influenze o diarrea. Ora, tutti questi malesseri o malanni o malattie leggere sono considerate è dentro un ambito di situazioni fisiche in cui la pratica comunque può essere portata avanti. So, let's say if you're suffering from some more serious illness, such as, let's say, what to take. Dengue fever is too strong. some illness where you are seriously sick, but you can still eat and you can still digest the food and move your bowels. Then you're still considered still fit for practice. E così dice, si viene considerato. Let's take. Amoebic dysentery. Così, nel caso per esempio della dissenteria o comunque di stati di malattia in cui siamo in grado di nutrirci, di compiere le nostre attività quotidiane da soli, questo tipo di malattie vengono ancora considerati possibili per portare avanti la meditazione. So, suffering from amoebic dysentery for sure is no fun. Così, soffrire per esempio di una dissenteria da ameba sicuramente non è un divertimento. And so, you might end up with tremendous cramps in the abdomen. Potrebbe succedere che si soffra per dei crampi molto forti all'addome. And so the digestion still will be okay. The problem is with the bowel movements. La digestione a questo punto potrebbe andare bene, ma quello che crea il problema è all'intestino. And so even when one is suffering from such a relatively serious disease such as amoebic dysentery, one is still considered fit to practice. Così anche in un caso di una malattia seria come appunto una disenteria da ameba, però quella persona è comunque considerata in grado di meditare. So in other words, as long as we're somewhat certainly healthy, as long as we can walk around and eat our food and digest our food, we should certainly be practicing. E così chiunque riesca a muoversi autonomamente, mangiare il cibo e digerirlo, viene considerato in grado di meditare. Now, the next quality or limb of fitness striving that we need to possess is certainly that of honesty and sincerity. Così la parte successiva o qualità successiva è quella di essere in possesso di una sincera onestà. And so, the Buddha describes this as follows, namely, then one is honest and sincere and shows oneself as one actually is to the teacher and one's companions in the holy life. E il Buddha ne parla in questo modo: una persona è sincera e onesta e mostra se stessa come veramente è, sia all'insegnante che ai compagni meditanti. And so, the Pali for this is asatto hoti. Asatto hoti è il termine Pali che descrive questa qualità. And hoti means is. Hoti significa è. And then satta means fraudulent. Satta significa fraudolento. And asatta means not fraudulent. Asatta significa non fraudolento. And so, there are two aspects here to not being fraudulent. Ci sono due aspetti qui su cui non essere fraudolenti. And the first one is that one should be free from pretense to possess positive virtues that one actually does not possess. Così la prima è che uno, la persona non dovrebbe pretendere di essere in possesso di virtù che in realtà non ha. Virtù o qualità. And this in the Pali scripture language is known as satya. Satya è la parola Pali che definisce questa condizione. And so then the second aspect is that one is being deceitful or hypocritical and one covers up one's faults. Deceitful and hypocritical. Hypocritical. Che una persona non dovrebbe essere ipercritica e nascondere le sue mancanze. Yes. Now, so the first case is certainly pretending to possess positive qualities which one doesn't have, and the second case is the case of deceit, namely covering up one's certain faults or shortcomings. Così la prima è quella di non pretendere di avere qualità che in realtà non si possiedono, e l'altra è quella di cercare di mascherare e di non mostrare le proprie mancanze. Now, to give you a practical example for the first aspect. Un esempio per il primo aspetto. A meditator comes to a colloquy and then to an interview and then reports on only wonderful experiences. Per esempio, un meditante viene al colloquio, all'intervista, e riporta soltanto meravigliose esperienze. And so, when the teacher then asks the meditator, for how long did you manage to stay with the rising and falling movement of the abdomen without thinking a single thought, that meditator then boldly states, 5 minutes is no problem whatsoever. E per esempio, se l'insegnante gli chiede: ma per quanto tempo sei stato in grado di rimanere col tuo salire e scendere dell'addome senza avere pensieri o distrazioni? E allora a quel punto il meditante magari risponde che per lui rimanere in quella condizione ci può stare anche per 5 minuti senza problemi. And so the meditator is pretending that he's having a perfect concentration. Oppure questo meditante pretende di avere una perfetta concentrazione, una profonda concentrazione. And so the teacher knows very well that to observe the rising and falling movement of the abdomen without thinking a single thought for 5 minutes is pretty close to impossible. Così l'insegnante sa molto bene che pretendere, avanzare la pretesa di essere in grado di osservare salire e scendere dell'addome per 5 minuti senza alcun pensiero o distrazione è praticamente impossibile. And certainly then as for the second aspect, namely of of deceit, this too can be quite difficult at times. Nel secondo aspetto, in quello in cui usi di dissimulazione, ecco che in questo caso ci possono essere difficoltà a volte. So, let's say a meditator pretends to get up early, very early in the morning, and then to be sitting and walking in the meditation hall. And then also after breakfast, pretends the meditator pretends to be sitting in the hall doing the walking meditation, when in fact this is not the case, and the meditator is taking long naps in the room. Per esempio, un meditante racconta o dice di alzarsi prima della normale sveglia al mattino per fare della meditazione seduta e camminata in più, oppure dice, racconta di non prendersi il riposo dopo pranzo, ma di continuare a meditare in sala, ma in realtà questo non è vero, e invece si fa delle lunghe dormite e lunghe pennichelle. So, a meditator that is, well, deceitful in this certain way, then will leave a certain positive impression. The teacher might certainly get misled by this for a while, but certainly then sooner or later it becomes obvious. Così questa attività di dissimulazione o così di mascherazione delle proprie attività o della propria pratica per un po' potrebbe funzionare, l'insegnante potrebbe anche essere ingannato per un po', ma prima o poi la verità salta fuori. And so in both cases, if there's pretense and if there's certain deceit, then it's somewhat difficult to work with such a meditator. E così, se c'è questa una volta scoperta questa dissimulazione, queste menzogne, ecco che a quel punto per l'insegnante risulta molto complicato lavorare con quella persona. And so, thus it's important, especially during the interviews, during an intensive retreat, to be as honest as possible. È molto importante durante un ritiro intensivo, che durante le interviste ci sia una onestà totale. And so, like with many other positive qualities, while we are on retreat, our attempt to be honest, or our ability to be honest, will improve more and more. And I'll explain this. E così, assieme alla nostra presenza qui nel ritiro, il nostro tentativo di essere onesti e sinceri, si progredirà sempre di più, e adesso andrò a spiegare. And Satnya, so during the beginning days of a retreat, a meditator may easily make some or casual statement which is maybe 50% true and 50% not true, and later on, and a casual statement, and so not think much about this, but later on in the practice, a meditator becomes so so precise and so wanting to be really honest and describing reality as it is, that he or she will be, I think, very very precise in the reports. Per esempio, nei primi giorni, ecco che un meditante potrà ogni tanto, può capitare che nei primi giorni faccia delle affermazioni che magari sono vere alla per metà, ma nel progresso della pratica la sua consapevolezza, la sua presenza sarà così precisa che col passare del tempo le sue dichiarazioni durante l'intervista saranno sempre più accurate e precise. And so, meditators then might at times come to an interview or in between, they may come up and say, last time I said such and such a thing during the interview, and it's not 100% correct. Could allow me to correct this? Può capitare appunto che dopo un po' di giorni il meditante venga all'intervista e dica: io precedentemente ho detto questo e questo, ma devo dire che non è del tutto così e vorrei modificare quel punto. And so, this kind of a thing during our daily life hardly ever happens. This kind of thing during our daily life hardly ever happens. E questo tipo di ravvedimenti, diciamo, di puntualizzazioni o precisazioni durante la nostra vita mondana raramente succedono. Now, the fourth quality is certainly that of exerting ardent energy. La quarta qualità è quella l'applicazione di una appassionata energia. And Satna, the Buddha says, one is energetic in abandoning unwholesome states and in undertaking wholesome states. Il Buddha dice, la persona è energetica nell'abbandonare gli stati non salutari e nello scegliere gli stati salutari. Furthermore, one is steadfast, launching one's effort with firmness. E ancora di più, uno è pronto nel lanciare il proprio sforzo in avanti, oltre l'ostacolo, diciamo. With firmness. Con fermezza. And then persevering in cultivating wholesome states. E con perseveranza coltiva gli stati salutari. So there's several aspects that are included in this particular passage. Così in questo passaggio possiamo vedere che ci sono alcuni aspetti interessanti. So the first one, namely, to apply or to be energetic in abandoning unwholesome states and causing to arise wholesome states, this in Pali is known as Arata Virya. Arata Virya è il termine Pali che descrive questa attività ardente nel fermare, nell'impedire che sorgano stati mentali non salutari, e nella motivazione nel far portare avanti, nel far sorgere quelli salutari. And so, the nature of the mind is such if we do not train or shape it in any particular way, then unwholesome mental states will grow just like weeds, namely bountiful. La natura della mente è tale che se noi non la definiamo, non le diamo una forma, non la coltiviamo, gli stati mentali non salutari avranno la tendenza di crescere come l'erba cattiva. So for our beautiful flowers, decorative flowers, we have to look after them, we have to water them, we have to do so many things so that they grow nicely. But when it comes to the weeds, we don't need to do anything whatsoever, they will flourish. Così, nel caso per esempio dei fiori ornamentali che possiamo avere nel nostro giardino, ecco che noi li coltiviamo con cura, li fertilizziamo e li facciamo crescere e dedichiamo molte cure, no? E dedichiamo molte cure affinché crescano in questo modo. Ma nel caso invece delle erbe infestanti, diciamo, ecco che non c'è nessuna cura da applicare loro, quelle crescono in modo incontrollato e spontaneo. And certainly so, if we keep applying effort, namely in sending the mind towards the most predominant object, moment after moment after moment, this thing means that the unwholesome mental states will be distanced, they will be kept at bay. Così, se noi continuiamo costantemente a inclinare la mente verso l'oggetto predominante, momento dopo momento, grazie a questa attività, facendo questo, gli stati mentali non salutari saranno tenuti a bada. If we do not center the mind moment after moment towards the most predominant object, then unwholesome mental states will easily arise in the stream of consciousness. Così, se noi non continuiamo a indirizzare la mente verso l'oggetto predominante, ecco che gli stati mentali non salutari con grande facilità sorgeranno nel flusso della coscienza. And so, along the same line, let's say some unwholesome mental states have arisen, and then we think, oh well, never mind, those certain sensuous thoughts, they're quite fascinating, okay, let me tolerate them, and let me indulge in them. And as a result of this, they will get stronger and stronger. Così, ad esempio, a un certo punto, quando c'è questa, nel flusso della coscienza, sorgono negli stati mentali non salutari, in qualche modo potrebbe sorgere il pensiero, e hanno un certo fascino, ci passo un po' di tempo, indulgo un po' in essi, e grazie a questa trasandatezza ecco che questi acquistano vigore e crescono sempre più, e prendono vigore e crescono sempre di più. So, when some unwholesome mental states have arisen, then we need to, as certainly explained in the previous Dhamma talk, we need to send our observing mind towards those states, and certainly then we need to observe them, and we need to know their nature. And in doing this, gradually these states will then subside. Così, quello che abbiamo bisogno di fare quando sono sorti degli stati mentali non salutari è che dobbiamo dirigere la nostra mente che conosce, direzionarla verso questi stati mentali, conoscerli, conoscerne la natura, e conoscendone la natura, gradualmente scompariranno. And so, it says in the paragraph on energetic effort or ardent effort, that one needs to be steadfast, And the Pali term for this is tamawant. Nel brano che abbiamo citato prima si parla di essere steadfast. Steadfast we have to pronti, resolute. Ah, yes. Okay. Abbiamo bisogno di essere resoluti. What is the Pali term? Tamawant. Tamawant. Tamawant è il termine Pali che descrive questo atteggiamento risoluto. And tama itself means strength or power. Tama significa forza o potere. So tamawant then may mean to be determined or to be strong. Così questo termine significa essere determinati, essere forti. Now, the practical implication is that when you experience some difficult physical object, like a tremendous, let's say, burning, stabbing pain, or you experience some very challenging, difficult mental state, it is in this kind of a situation that you need to be determined and not run away. Così il caso si può verificare che stiamo sopportando, stiamo fronteggiando, stiamo sperimentando un dolore bruciante, lacerante, oppure uno stato mentale molto difficile, molto duro da sopportare. Ecco, è in questo caso che abbiamo bisogno di questa risolutezza. No. There's still more to be explained. We're running out of time today, so I'll do that tomorrow. And allow me to conclude by wishing may all of you be fulfilled with these qualities, namely faith and the virtues of the Buddha. May you have good health and maintain it, and then with utmost sincerity and honesty and ardent effort may you practice, and the result of this may much intuitive wisdom arise, and may it lead you in the end to the destruction of the corruptions, in other words to arahantship. Così che ci sono ancora molte cose da dire, il tempo corre veloce, così finirò questo argomento domani sera. Vorrei concludere il discorso di questa sera augurando a tutti voi di essere colmi di queste qualità, colmi della qualità della fede, colmi della qualità della salute, dell'onestà, della sincerità e dello sforzo energetico. And this thing will lead to the arising of the wisdom as a result. E questo, e grazie a questo vi condurrà alla distruzione delle corruzioni e al risultato dell'ottenimento dello stato di Arahant. And that's it. Salut.